Alzerò il vostro sangue sul muro della vergogna, aspettando l'orgasmo del mondo, del Messia che venga, aspettando l'orgasmo del mondo, del Messia che venga. Il vostro cuore è danaro e vi fa diventare ciechi, il vostro sputo non ha più rivali, né nemici, né feti, la clessidra è al suo ultimo soffio, morti prima che nati. Gloria agli umidi, marciapiedi polverosi, gloria agli umili sentieri luminosi. Strada di Gerusalemme, un incrocio in pieno deserto, l'opera, una croce nel segno, una stimmate a cielo aperto, l'opera, una croce nel segno, una stimmate a cielo aperto, ai bordi della compassione, senza remore alcuna, la vostra ricchezza sarà la vostra sfortuna, la vostra salvezza sarà nessuna, nessuna. All'alto della collina, in decomposizione, guarderò i vostri visi cadaverici morire nel sole, mentre serpi, scorpioni e colombe pisceranno sulle vostre tombe.